Euro Reportage. Colonia e la notte che sta cambiando l'Europa, di Raffaella Calandra. Sulle scale dell'antico Duomo ogni tanto qualcuno lascia un fiore, una candela o un bigliettino, come si fa nei luoghi dove si piangono i morti ammazzati, perché così, come un attentato, la Germania ha vissuto la Silvesternacht di Colonia, la notte che ha cambiato tutto, per dirla col titolo del quotidiano Welt am Sonntag, e che potrebbe modificare anche l'Europa. Schengen war mal eine gute Idee, aber Frau Merkel hat Schengen zerstört. Frau Merkel ha distrutto Schengen. Era una buona idea, ma la cancelliera l'ha fatta in mille pezzi. In piazza, tra gli xenofobi di Pegida, Jorge alza un cartello. Per la sicurezza delle nostre donne, recita, i musulmani dovrebbero stare alla distanza del Mar Mediterraneo, non di un braccio. Urlano Widerstand, resistenza ed espulsioni, le teste rasate di questo movimento di estrema destra, nato proprio con quest'ultima crisi migranti nel 2014 e tornato a scendere in piazza su questa sponda del Reno dopo le molestie di massa alle donne da parte soprattutto di stranieri, compresi dei richiedenti asilo. Ma a sorpresa, anche nell'altra manifestazione contrapposta, sotto le bandiere cioè di movimenti antirazzisti e dei partiti di sinistra, come pure tra le femministe, ora tutti ripetono: i profughi sono troppi. Siamo qua perché ci sono state delle aggressioni e trovo importante che le donne difendano il loro diritto a stare tranquillamente in giro, senza paura. È normale che adesso le donne abbiano più paura ad andare in giro da sole, visto quello che è successo. Ma quello che trovo importante è che c'è il rischio si torni indietro di anni. Molti uomini, soprattutto tra i migranti, non vogliono che le loro donne camminino per le strade di sera e ora hanno una ragione in più per dire: devi stare a casa. Il pericolo è che torniamo tutti indietro di anni. E quello che trovo grave è che né la Chiesa Cattolica né le istituzioni abbiano avuto per noi la stessa solidarietà mostrata per i profughi. Lo shock di Colonia, con oltre 600 denunce e le notizie di molestie da parte di uomini stranieri anche da altre città tedesche e non solo, ha messo in discussione l'intera Willkommenpolitik di Frau Merkel, quella che ha aperto le porte della Germania solo nel 2015 ad 1.100.000 migranti. È la Stimmung che dopo Capodanno è proprio cambiata verso i profughi, quell'atmosfera generale che se lo scorso autunno aveva spinto centinaia di persone ad accogliere a braccia aperte schiere di siriani, iracheni, afghani, arrivati a piedi dall'Ungheria o dai Balcani, ora induce anche i più moderati a rispolverare invece il concetto di confine. E Grenzen è la parola più ripetuta nei dibattiti TV, destinata a mandare in soffitta lo slogan di Berlino via Schaffen Das, ce la facciamo? Lederjacken, Pelzjacken und Puppen, aber die Puppen sind schon alle weg. Davanti al campo profughi di Hercule Strassi a Colonia, Ikle Waltraund, anziana signora, apre il cofano dell'auto e inizia a distribuire giacche di pelle e bambole. Ma le bambole sono già finite. Io ho troppe cose, non ho più bambini e comunque voglio donare qualcosa. Credo non bisogni generalizzare dopo gli incidenti di Colonia. Molti erano arabi, ma non bisogna associarli necessariamente ai richiedenti asilo. Detto questo, io credo non si possa più andare avanti così con questi numeri. Sono troppi, senza dubbio, ma nonostante questo io ho solidarietà verso questa gente. La rabbia delle donne di Colonia e la reazione della Germania ha spinto la cancelliera da tempo sotto la pressione interna della Baviera, ma ora attaccata anche da parte della sua maggioranza, eppure da non pochi stati dell'Unione Europea, sempre sulle politiche dell'emigrazione, ha spinto innanzitutto ad una stretta per rendere più facili e veloci le espulsioni e la revoca dell'asilo a quei profughi colpevoli di reati gravi. Das heißt, das Recht auf einen Aufenthaltsstatus und auf ein Asylverfahren. Il diritto a uno status di residenza e a una procedura di asilo può essere perso se qualcuno è condannato alla libertà vigilata o al carcere. I delinquenti seriali che ripetutamente rapinano o attaccano le donne devono sentire tutta la forza della legge. Una linea a cui plaude Bruxelles, che attraverso il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, concorda che è giusto che perda il diritto alla protezione chi non rispetta le leggi ed è giusto, dice, essere duri. Si deve capire, rincara, come nell'Unione Europea vogliamo che si trattino le donne, non vogliamo tornare al Medioevo. Medioevo. Parole chiare che confermano ancora una volta come la notte di Colonia da tanti fronti possa davvero cambiare l'intera Europa, con al centro, e non solo geograficamente, la Berlino di Frau Merkel, ora attaccata duramente anche dal New York Times. Ma dopo la dichiarazione di Magonza, con il pacchetto di nuove leggi e con le elezioni regionali alle porte in 5 diversi Länder il 13 marzo, elezioni dove i populisti di Alternative für Deutschland si preparano a conquistare terreno, la cancelliera fa capire di essere disposta a riparlare anche di quel tetto all'accoglienza su cui fino alla fine del 2015, fino cioè alla notte di Colonia, era pronta a giocare invece la sua faccia e la sua credibilità. E questo, un cambiamento cioè della Germania, approdo di moltissimi richiedenti asilo e imprescindibile transito verso una penisola scandinava sempre più chiusa, potrebbe avere conseguenze a catena per tutta l'Europa che nessuno ora può immaginare. So please, don't change with... Don't change for all. A volte dalla bandiera del paese che li ha accolti quando hanno dovuto lasciare la Siria, questi tre ragazzi ora chiedono scusa alle donne di Colonia sulle scale del Duomo e non nascondono la paura di veder compromessa anche la loro vita in Germania. Sono qua per chiedere scusa alle donne di Colonia. Ora tutti dicono che è colpa dell'Islam, ma no, l'Islam non dice questo. Tutti i tedeschi sono come miei fratelli, tutte le donne come mie sorelle. So che ci saranno cambiamenti, ma spero di no. I cambiamenti invece sono arrivati, con un nuovo trend politico ancora da definire, ma anche con un clima diverso in cui sono maturati pure dei raid xenofobi a Colonia come a Lipsia. È la paura che nel campo profughi di Herkulestrasse Azim da subito ci ha confessato, quella cioè di non sentirsi più willkommen in Germania e quindi di fatto in tutta Europa. There is too much Arabic people came, too much... I problemi creati da troppi arabi cattivi hanno reso i tedeschi pazzi nei confronti dei rifugiati. E non so più se sia il caso di restare qua, non so più se sia una buona situazione. Ero in stazione a Capodanno e ho visto coi miei occhi che c'era gente cattiva. Si lanciavano fuochi d'artificio addosso, rubavano i cellulari. Fight to each other. They wanted to steal mobile phones, everything, some moves like that. E soprattutto in massa hanno molestato e in due casi anche stuprato le ragazze. Il pugno duro della coalizione col nuovo pacchetto di leggi non a tutti però è piaciuto, perché ad esempio, ci dice Kirsten Jahn, consigliera dei Verdi nella città di Colonia, sono decisioni che non vanno prese sull'onda emotiva. Ogni uomo che commette reati viene punito, indipendentemente dai documenti, dalla razza, provenienza o fede. Tuttavia, bisogna stare attenti e parlare forse anche di una normativa internazionale. Noi abbiamo già in Germania delle leggi per punire i responsabili di reati, anche se migranti. E allora bisogna applicare le leggi che già ci sono, prima di introdurne di nuove. L'emozione però in questa vicenda è stata da subito molto forte, non solo qui, all'ombra dell'austero Duomo gotico, ma in tutta la Germania, che si è sentita violata come se davvero avesse subito un attentato. E forse a cadere nella notte di Colonia è stata proprio la Willkommenpolitik della cancelliera Merkel. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.